e penso alla mia storia, ho capito al finito che non tornerà più. Che non leggerò più. La luce si confonde come pioggia. Luce si confonde fino al casello laggiù, bianco, grigio e blu. Questo è il filo del ricordo che non ritrovo più. La mente si confonde come l'acqua sulle sponde, verde, bianca e blu. Alla fine l'ho capito, il futuro.